voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Maremma, come cresce sto figliolo, ragazzi. Sai, Torello ci viene. Come gli si mette nome? Gino. Brava. Gino. Spanish Johnny arrivò ieri notte dai bassi fondi con lividi sulle braccia e un'andatura traballante, in una Buick tutta ammaccata, ma vestito che era uno schianto. Provò a vendere il suo cuore alle dure ragazze di Easy Street, ma loro gli dissero: «Johnny, il tuo è così facilone e tu lo sai che i cuori oggi sono a buon mercato». E i protettori, ruotando i loro bastoni, dissero: «Johnny, sei un imbroglione». Allora i protettori, ruotando i propri bastoni, dissero: «Johnny, sei un bugiardo!» E dalla penombra giunse la voce di una ragazzina che disse: «Johnny, non piangere. Oh, Puerto Rican Jane, non vuoi dirmi come ti chiami? Voglio portarti dall'altra parte della città, dove il paradiso non è così affollato. Ci sarà movimento giù per Shanty Lane stanotte. Tutte quelle bellezze dalle scarpe dorate in una vera zuffa di mignotte, uno sparo di una 38 e un bacio della buonanotte alle ragazze. Oh, buonanotte, va tutto bene, Jane. Adesso lascia che entrino in te quei ragazzi di colore per accendere la fiamma dell'anima. Noi possiamo trovarla fuori, in strada, stanotte, piccola, o forse possiamo camminare fino all'alba». Come un disinvolto Romeo, lui faceva le sue mosse. Oh, e lei era così carina. Come una novella Giulietta, lei sapeva che non sarebbe mai stato vero, ma non le importava proprio. Di sopra una band suonava, il cantante cantava qualcosa sul tornare a casa. Lei sussurrò: «Spanish Johnny, puoi lasciarmi stanotte, ma non lasciarmi sola adesso». Questo era l'incipit di Incident on 57th Street di Bruce Springsteen. Boxes mine. back up and follow me. But I'm so afraid to stand up, stand up to you. Il duo californiano degli Hillel, ascoltati con Esophagus, che è il brano che io ho sempre estratto fino ad ora, non ho fatto altre scelte dal loro album d'esordio, album che ha colpito gli ascoltatori di Eclettica, perché ho avuto riscontro nei vostri mail più di una volta di quanto questo pezzo sia rimasto nelle vostre teste, passando attraverso le orecchie. Invece questa seconda parte di Eclettica, che si era aperta con gli Off Montreal Duo Gmeg, un titolo in norvegese per un estratto da un loro recente EP. E si prosegue invece con una formazione canadese, c'è veramente parecchio materiale interessante che proviene dal Canada negli ultimi anni. Loro si chiamano Rock Plaza Central e sono usciti con un nuovo disco dal titolo Are We Not Horses, che è un album concept, però un album concept veramente un po' particolare. Infatti l'idea attorno a cui ruota è quella di cavalli meccanici, i quali sono stati programmati per pensare, per credere di essere davvero dei cavalli. L'estratto scelto ha per titolo How Shall I to Heaven Aspire? We have our lives together and we want nothing more than we should die together down here upon the shore. My lips upon your neck and your legs around my chest, surrounded by everything that we love the best, so we don't have to falter and see it drawn so slight. 'Cause I would run more proudly between your thighs tonight. I wanna be a shining example. I wanna be a shining example. I wanna be a shining. We die tonight, dear. There will be nothing left. Gino! Gino! A proposito, Gino Guarini, babbo d'Osvaldo, cioè mio nonno, morì proprio il giorno che nacque il mio Gino. Povero nonno, aveva sempre voluto vivere da solo. E da solo una mattina si spensa all'improvviso. Mi ricorderò sempre quello che mi disse il giorno prima di partire. Io gli dissi semplicemente: Gino! Domani vai in Spagna! E lui, altrettanto semplicemente, mi rispose: Olé! Down with her. Lasciati andare, Rosie. È arrivato il dottore a sciogliere le briglie che ti legano a tua madre. Sai che Mosca Cieca è un gioco da bambini. Tu passerai a prendere Little Dynamite e io Little Gun. E insieme usciremo nella notte e ci lanceremo sull'autostrada. Non ti devi sentire sottomessa, Rosie, né provare verso di me sentimenti materni. L'unica amante di cui avrò bisogno sarà la tua morbida, dolce lingua da bambina. E Rosie, tu sei unica. Dynamite è sul campanile, tesoro, a giocare con i pipistrelli. Little Gun è in centro, davanti a Woolworths, a dimostrare il suo ascendente sugli altri ragazzi. Papà è all'angolo e aspetta l'autobus. Mamma è alla finestra e attende il nostro ritorno a casa. Sarà ancora seduta su quella sedia quando arriveranno, perché, e tu lo sai, noi non torneremo. Ma non sono affari nostri, comunque, piccola mia. Sono qui solo per divertirmi. E Rosie, tu sei l'unica. Rosalita, salta un po' più agilmente. Signorita, vieni a sederti accanto al mio fuoco. Voglio essere solo il tuo amante. Non sto raccontando storie. Rosalita, sei il mio desiderio più grande. Jack the Rabbit e Whitney Willie ci saranno anche loro, sai? Ah, Sloppy Sue e Big Bones Billy verranno a prendere una boccata d'aria. Compreremo i biglietti di qualche lotteria, salteremo la scuola, faremo tutto alla grande, fuori tutta la notte. Ci farà sentire davvero bene. Perciò, Rosie, vieni fuori stanotte, piccola mia, vieni fuori. Le finestre sono per chi si muove di nascosto, i comignoli per i poveri, i gabinetti per gli impiccati. Ma i vincenti usano le porte. Perciò usala, Rosie. È fatta apposta per questo. Rosalita, salta un po' più agilmente. Signorita, vieni a sederti accanto al mio fuoco. Voglio essere solo il tuo amante. Non sto raccontando storie. Rosalita, sei il mio desiderio più grande. So che a tua madre non piaccio, perché suono in una rock and roll band, e so che tuo padre non mi sopporta, ma lui non ha capito niente. Tuo padre si infuriava per il tuo comportamento, ti rinchiudeva nella tua stanza. Io vengo a darti una mano, vengo a liberarti, confiscarti, voglio essere il tuo uomo. Un giorno ripenseremo a tutto questo e ci sembrerà triste. Tua madre non ne vuole sapere e tuo padre dice che non ho il becco di un quattrino. Ma ora tu digli che questa è l'ultima possibilità di far vivere a sua figlia una bella storia d'amore. Questo era l'incipit di Rosalita di Bruce Springsteen. Thank you. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 45, volume numero 5. Indice, Minus Story, The Most Serene Republic, The Polyphonic Spree, Pelle Karlberg, The Pigeon Detectives, Michael Dracula, Off Montreal, Illal, Rock Plaza Central, Elk City, I Like Trains. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a settimana prossima, a lunedì, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.